Waia boi, o Rick. Waia boi. Waia boi, o Rick. Waia boi. Perché avete già la vostra consolazione. Perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi. Guai a voi che ora siete sazi. Perché avrete fame, perché avrete fame, guai a voi che ora ridete, guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti diranno bene di voi. Guai quando tutti diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri coi falsi profeti. Facevano i loro padri coi falsi profeti. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano e benedite coloro che vi maledicono. E pregate per coloro che vi maltrattano e benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano. Io dico, amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano e benedite coloro che vi maledicono. E pregate per coloro che vi maltrattano e benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano.